Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Do you have a shirt that you really love? One that you feel so groovy in? You don't even mind if it starts to fray. That only makes it nicer still. È una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati a Due di Denari questa mattina, trasmissione che mi vede in conduzione solitaria senza Mauro, ma fra un attimo vi racconto le motivazioni e le giustificazioni per le quali è assente. È un assente assolutamente giustificato. Perché cominciamo così questa mattina? Perché vi volevo raccontare di questa storia, purtroppo una parabola negativa, per la quale appunto abbiamo un profondo dispiacere, ma tant'è, il Covid ci lascia anche questa eredità. Brooks Brothers, la società che ha vestito con le sue camicie l'America del business per oltre 200 anni, non è riuscita a superare la crisi provocata dalla pandemia. Una crisi che si è rivelata fatale, al punto che la società ha dovuto dichiarare la bancarotta. La catena di abbigliamento è controllata dall'italiano Claudio Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, Leonardo, ha dovuto fare ricorso alla protezione fallimentare, al Chapter 11, Mauro chiaramente lo indicherebbe senza indugio, prevista dalla legge statunitense, mentre continua a valutare le opzioni strategiche, inclusa una possibile vendita. Un portavoce dell'azienda ha comunicato che appunto il gruppo starebbe per scegliere il proprietario o proprietari futuri e ha detto che renderà noti ulteriori dettagli sul processo di vendita nei prossimi giorni. Questa azienda ha generato un fatturato pari a 990 milioni di dollari l'anno scorso, a circa 250 negozi monomarca nel Nord America e altri 500 punti vendita in tutto il mondo. Adesso si vede costretta a chiudere 3 fabbriche entro il 15 agosto. In precedenza aveva già dovuto chiudere 51 negozi a causa della pandemia. Insomma, una notizia che naturalmente ci colpisce relativamente, nel senso che sono delle, come dire, situazioni che raccontiamo ogni giorno. E peraltro questa dichiarazione di bancarotta, nel senso, al momento appunto la società ha fatto ricorso alla protezione dei creditori e alla protezione fallimentare, va ad ingrossare le fila questa società dei gruppi statunitensi della moda che hanno già chiesto la bancarotta a causa del coronavirus, da Neiman Marcus Group a J.Crew Group, JCPenney. La società era già in difficoltà finanziaria appunto pre-Covid, aveva già dovuto chiudere dei negozi, come vi dicevo, e adesso abbiamo proprio questo capitolo più o meno finale. Brooks Brothers è stata fondata, pensate, nel 1818 e si è imposta come società pioniera nella manifattura di camicie già pronte. Sono state indossate anche da tanti presidenti degli Stati Uniti e poi fino a quando appunto è stata acquisita da Claudio Del Vecchio. Allora, perché abbiamo voluto cominciare così? Perché oggi è giovedì, c'è Investire Informati e quindi anche questo sarà in qualche maniera, se vorrete, un tema di commento con il nostro ospite di questa mattina, perché chiaramente anche dai consumi dipende la ripresa economica, soprattutto quella americana fa molto leva sui consumi che praticamente rappresentano i 2/3 della spesa complessiva americana, e quindi se ripartono questi possiamo dire che possono ripartire le aziende, può ripartire l'economia. Certo che se continuiamo a raccontare queste storie ogni giorno la vedo dura per la ripresa dei consumi, e però il mercato azionario ci racconta tutt'altro invece, di un'economia in ottima salute. Quindi ancora una volta, per il commento con il nostro ospite di stamattina, ripartiremo da quello che Mauro Meazza ha ribattezzato, come sapete, lo strabismo dei mercati. Mercati che corrono, il Nasdaq ieri sera ha toccato un nuovo record, l'economia sottostante che invece disegna un grafico totalmente diverso. Quindi questo per quello che riguarda la puntata di oggi. 800 24 00 24, se volete interagire con noi per questa giornata di Investire Informati. Il nostro ospite di questa mattina è un ritorno, quello di Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. In apertura, oltre al nostro giornale radio del risparmio, che adesso vado ad iniziare a brevissimo, vi racconteremo anche quello che sta succedendo, e questa è la motivazione per cui Mauro non c'è questa mattina, un assente giustificato, perché sta coordinando la presentazione di questo webinar organizzato da Assogestioni, nel corso del quale c'è la presentazione di un'indagine molto interessante, molto bella, di Censis, che spiega il valore delle diversità, della diversità nelle scelte di investimento prima e dopo il Covid-19. Lo stato di salute delle famiglie italiane in questa emergenza lo sappiamo qual è, di grande difficoltà, e però insomma il mondo del risparmio ci racconta qualcosa di abbastanza particolare, perché si sono drasticamente ridotti i consumi, ma chi ha avuto la fortuna di conservare le sue entrate, il suo reddito, ha aumentato la sua propensione al risparmio. In che modo? Dipende dal tessuto sociale al quale si appartiene. Questo è il tema della diversità esplorato da questa indagine, e fra un po' ve la racconterò insieme a chi l'ha curata direttamente, il professor De Rita. E il numero verde per intervenire ve l'ho dato, potete anche scriverci come sempre al 349-238-6666, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Adesso via, caro Carmelo Lauricelli in regia, buongiorno, da Lino Di Trani in assistenza, qui vicino a me in remoto come sempre c'è Marco Lombardo, possiamo partire con il giornale radio del risparmio. Amore, i soldi, Quattro notiziole veloci per agevolarci verso l'investire informati di questa mattina. Allora, con un incremento medio dell'1,4% nel mese di giugno rispetto a maggio, le intenzioni di acquisto, forse non di camice, degli italiani si consolidano sui livelli precedenti l'emergenza Covid, ma i prezzi per il 73% dei consumatori sono cresciuti, mentre i redditi di oltre due terzi restano inferiori rispetto a febbraio. Ce lo racconta l'osservatorio mensile Findomestic di luglio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, e rileva come a penalizzare la riattivazione delle ritrovate propensioni al consumo siano anche un clima di incertezza permanente, la paura del virus e il timore concreto di una nuova ondata di contagio in autunno. Nonostante la voglia di consumare sia tornata pressoché alla normalità, nel mese di giugno però il 63% degli intervistati da questo osservatorio ha affermato di spendere meno rispetto al periodo pre-Covid, il 14% per problemi economici, il 23% perché è più attento al risparmio, il 26% perché attende che il contesto migliori. Solo il 18% è ottimista e addirittura si aspetta un incremento delle proprie entrate nei prossimi mesi. In questa situazione si mantiene su livelli elevati la propensione agli acquisti rateali, ai quali fanno ricorso il 50% appunto del campione interpellato da Findomestic. Allora, pesa sempre nella stessa modalità però la bolletta che paghiamo ogni bimestre elettrica. La complessità e l'articolazione della bolletta elettrica è tale da compromettere significativamente la trasparenza e la comprensibilità delle fatture per l'utenza. Lo dice il capo di gabinetto dell'autorità del mercato e della concorrenza Enrico Quaranta nel corso di un'audizione in commissione industria al Senato. Cosa dice in questa sua riflessione al Senato della Repubblica il dottor Quaranta? L'aumento dell'incidenza degli oneri di sistema sulla spesa complessiva ha un impatto rilevante sul processo di liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica, atteso che incide negativamente sulla scelta e sulla comprensione delle offerte da parte dei clienti finali. È detto tutto in modo molto tecnico, un po' complesso, però questo lo sappiamo benissimo. Quante volte ci mandate il PDF, una fotografia delle bollette che vi arrivano in casa, e a fronte di consumi ridottissimi la bolletta che pagate è molto alta. L'incidenza della tassazione, della fiscalità e dei cosiddetti oneri di sistema è oltremodo insopportabile, oserei dire, e insomma adesso nero su bianco viene messo anche da parte dell'autorità garante del mercato di fronte al Senato, quindi insomma la politica che ne prenda atto per cercare di capire se si può fare qualcosa. Sappiamo che è una battaglia delle associazioni dei consumatori da tantissimo tempo, ma a quanto pare si riesce ad intervenire con grande difficoltà, anzi non si riesce proprio ad intervenire. Volevo segnalarvi che, come sapete, in questo periodo, ma lo raccontiamo ogni giorno, in borsa è in corso un'operazione di mercato molto importante, l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UbiBanca, e in questa offerta ovviamente oltre ai grandi azionisti di UbiBanca anche i piccoli azionisti di queste banche sono chiamati eventualmente, se lo vorranno, ad aderire alla proposta fatta da Intesa San Paolo. Un'offerta che avviene scambiando 10 azioni ordinarie di UbiBanca con 17 azioni ordinarie di nuova emissione Intesa San Paolo. È un'operazione complessa, c'è un prospetto informativo che potete leggere per documentarvi al meglio, ma proprio per informare su tutta l'operazione, in modo che queste informazioni possano arrivare anche ai piccoli risparmiatori, Intesa San Paolo nei giorni scorsi ha incontrato le associazioni dei consumatori che aderiscono al CNCU, al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, che è l'organizzazione delle organizzazioni dei consumatori, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ricordiamo che il periodo di adesione è iniziato lunedì 6 luglio e si concluderà il 28 luglio, per cui se volete capirne qualcosa di più, oltre a leggere i giornali finanziari, potete anche rivolgervi ad un'associazione dei consumatori che ha incontrato Intesa San Paolo per farvi spiegare bene che tipo di ripercussione potrà avere sul vostro portafoglio investito in azioni UBI, appunto questa operazione straordinaria, come vi dicevo. L'ultima segnalazione che voglio farvi, visto che ieri abbiamo parlato delle professioni legate al bonus del 110% per la riqualificazione energetica dei nostri edifici, vi segnalo quello che c'è sul Sole 24 Ore di questa mattina, un pezzo piuttosto articolato che porta la firma dell'esperto commercialista Luca De Stefani e di Giuseppe Latour, un collega del Sole 24 Ore, tutte le mosse da fare subito per chi fosse intenzionato appunto ad attivarsi con lavori che sono economicamente impegnativi, fiscalmente molto vantaggiosi, ma tecnicamente anche complicati, per cui stamattina c'è un bel affresco di nuovo del Sole 24 Ore con altri dettagli sul super bonus. Bene, con le notizie in breve è tutto, direi che è tempo di cominciare a parlare di risparmio, investimenti, mercati finanziari e non solo. Investire informati. Com'è cambiato il vostro modo di investire dopo l'arrivo del Covid? Vi sentite più impauriti, più prudenti, più attenti a risparmiare? Avete consumato meno ma avete mantenuto inalterato il vostro tasso di risparmio? Insomma, sarà questo un po' il tema di partenza di questa mattina, con il quale mi confronterò anche con il nostro ospite, che saluto subito, Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, intanto la qualità della telefonata, per fortuna che abbiamo fatto questo test, non ci piace molto, quindi ci prendiamo subito la pausa per ripristinare la telefonata, ma soprattutto per far sentire ai nostri ascoltatori l'intervista che abbiamo realizzato poco fa, quella a Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, che proprio in questi minuti sta presentando in questo webinar organizzato da Assogestioni questo studio sul valore della diversità nelle scelte di investimento. È uno degli incontri organizzati appunto da Assogestioni in streaming, dedicati ai principali temi di interesse appunto per il settore del risparmio gestito, ma anche per il settore e per il mondo dei risparmiatori. Allora, questo è un rapporto piuttosto articolato che ci racconta intanto qual è in questo momento il sentimento degli italiani rispetto al risparmio, chiaramente facendo un confronto rispetto a come erano prima dell'esplosione di questo tsunami del Covid. E allora ce lo siamo fatti naturalmente raccontare nelle conclusioni questo rapporto proprio dal professor De Rita. La prima domanda che gli ho fatto, vi propongo questa intervista, è come si sono misurati gli italiani che risparmiano e investono con i drammatici mesi di marzo ed aprile, un contesto segnato dall'incertezza che ha sicuramente capovolto la situazione economica di milioni di persone nel nostro paese. Sentiamo che cosa ci ha risposto. La popolazione italiana in questi mesi di chiusura delle attività produttive ha incrementato ulteriormente il suo risparmio di circa 34 miliardi di euro nei tre mesi più neri della pandemia, che si aggiungono a circa 120 miliardi di euro accumulati dalle famiglie sotto forma di risparmio nei tre anni precedenti. Quindi abbiamo accelerato quello che era un processo già in atto di messa al riparo di un po' di risorse, perché c'era preoccupazione e incertezza per il futuro, per il lavoro, per le condizioni di salute, per il progressivo invecchiamento, tutti i dati che conosciamo bene e che in questi mesi si sono accelerati. Per certi versi è una considerazione quasi banale, perché circa il 70% dei percettori di reddito in Italia hanno visto inalterati i propri redditi e per necessità abbattuti i propri consumi, quindi in qualche modo ce lo potevamo aspettare. Quello che invece non ci aspettavamo è che il sentimento di preoccupazione verso il futuro, nel lungo periodo, nella tutela della famiglia e della propria salute, in qualche modo si concentrasse, collassasse quasi in una paura per il quotidiano, in un'incertezza sull'oggi, sul domani. La pandemia di fatto ha cambiato tutto, ha detto agli italiani, ha fatto dire agli italiani tutto può succedere. E quindi il risparmio diventa una condizione strutturalmente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 4-5 anni, perché non deve fronteggiare soltanto il futuro dei prossimi 4-5-10 anni, ma deve fronteggiare l'emergenza quotidiana. Il punto centrale, professor De Rita, della vostra indagine è la diversity. Noi, quando riflettiamo su questo tema, tendiamo generalmente a pensare solo alla questione di genere, differenza di comportamento in determinati ambiti fra uomo e donne. Invece la vostra indagine allarga molto lo spettro analizzato e quindi avete classificato le abitudini di risparmio e di investimento secondo gruppi sociali, e questa è la vera diversity. Cosa avete scoperto? Sì, noi siamo partiti da una considerazione fatta dai consulenti finanziari che abbiamo intervistato e che ci dicono due cose. Primo, sta crescendo molto rapidamente per il 95% dei consulenti finanziari il tema della diversity rispetto ai mesi e agli anni passati, quindi c'è un processo in accelerazione. Secondo, abbiamo scoperto che mentre il modello, diciamo, più consueto di diversity è quello di genere uomo-donna, in realtà il panorama è molto più frammentato e complicato. La diversità conta, ma conta soprattutto riconoscere le differenze dei risparmiatori. I comportamenti dei giovani laureati sono molto diversi rispetto a persone che hanno magari titoli di studio inferiori, le persone che risiedono al sud hanno comportamenti diversi, le donne e gli uomini hanno comportamenti diversi, quindi stiamo assistendo a una sorta di esplosione in tanti frammenti di quelli che sono i comportamenti finanziari delle famiglie italiane. Certamente chi ha più capacità di reddito, di risparmio, ha maggiore attenzione, ma questo è vero anche nelle famiglie a più basso reddito. Il secondo elemento che in qualche modo caratterizza il concetto della diversità è che le famiglie italiane sempre più spesso e sempre con maggior convinzione si sono spostate da un modello di decisione dell'investimento lasciato in capo al capo famiglia, al percettore di reddito, uomo o donna, e invece oggi è sempre più una scelta condivisa, una scelta che si fa tutti insieme, che si fa con i figli, che si fa confrontandosi. Quindi c'è non soltanto una diversità di genere e di condizioni economiche e sociali fra le famiglie, ma anche un'attenzione agli interessi e ai diversi interessi all'interno della propria famiglia. Professor De Rita, come investono le famiglie italiane in questa fase post-lockdown, dalla quale emerge, mi sembra di aver capito dalle sue considerazioni, che vince, se si può parlare di qualcuno che vince in un contesto così drammatico come quello che abbiamo vissuto, chi comunque ha avuto la sicurezza del reddito? Come investono dunque oggi le persone? Hanno accumulato di più sotto forma di cash o hanno cominciato a reimpiegare il proprio risparmio andando sui mercati, perché vediamo comunque che i mercati stanno correndo, e quindi come guardano anche a questo aspetto gli investitori italiani? Ma gli investitori italiani sono caratterizzati da tanto tempo da un principio fondamentale, quello del cash cautelativo. Devo avere risparmio, soldi nel cassetto pronti per essere spesi di fronte alle emergenze, e questo è ancora vero. Consideri che un italiano su tre considera la liquidità come la sua vera assicurazione per il futuro, addirittura equivalente all'intervento pubblico dello Stato con i sistemi di welfare. Quindi il primo punto è la liquidità. Il secondo punto è quello di riuscire a diversificare un pochino, anche per importi modesti, il proprio portafoglio, perché bisogna non soltanto affrontare il futuro, che è prevalentemente preoccupazione sanitaria, ma bisogna anche garantirsi un minimo di reddito per mantenere inalterati i consumi per i prossimi anni. Quindi liquidità su tutto, in secondo un po' di razionalizzazione del portafoglio per avere un po' di flussi di rendimento maggiori rispetto alla liquidità che non rende sostanzialmente nulla. Da ultimo gli strumenti finanziari tradizionali, le polizze assicurative, i fondi, il sistema azionario. Rimane una buona attenzione verso i titoli pubblici, che però è in continua discesa, è un fenomeno che riscontriamo da diversi anni. Non credo ci sia contraddizione rispetto ai buoni risultati che leggiamo sui giornali dei titoli di Stato, e che però sempre di più, non soltanto in Italia ma in tutta Europa, sono intermediati dai grandi operatori finanziari più che dagli investimenti diretti alle famiglie. Le famiglie non cercano il prodotto emesso dallo Stato o dall'emittente pubblico, cercano più un prodotto, diciamo, immediatamente liquido. Quindi i titoli di Stato sempre meno fiducia anche nei confronti della capacità delle risorse pubbliche di investire per il futuro del paese, di investire nell'economia reale, di investire in quello che si chiamano, come dire, progetti della sostenibilità ambientale, sociale, di solidarietà, delle infrastrutture. Un risparmio quindi molto prudente, esattamente come l'atteggiamento degli italiani. Massima prudenza, tanta incertezza, preoccupazione per il quotidiano, ma anche consapevolezza che siamo un grande paese, che la forza finanziaria delle famiglie è poi prima o poi verrà. Lorenzo Alfieri, prima di andare in pausa per l'aggiornamento di borsa e poi continuare la nostra conversazione per la quale abbiamo mezz'ora di tempo, le chiedo un commento su questa indagine, quali sono gli aspetti che l'hanno colpita di più sul tema del cash cautelativo. Mi tocca utilizzare ancora l'inglese, stamattina gli ascoltatori mi stanno contestando molto, quindi contanti, liquidità sul conto in questa espressione cautelativa non è una novità di oggi, conoscevamo anche questa attitudine e questo aspetto, ma mi sembra che si stia sempre di più rafforzando. Che ne pensa? Sì, diciamo che sicuramente è molto interessante, a mio parere, anche in una fase così critica come quella che abbiamo appena vissuto, un po' un'evoluzione, diciamo, dell'atteggiamento degli investitori. Potrebbe sembrare in prima, diciamo, una prima lettura che l'investitore italiano stia tornando indietro. Ma in effetti io vedo invece degli elementi di novità molto significativi. Innanzitutto il fatto che ci sia una più ampia rappresentazione e coinvolgimento di figure che fino a poco tempo fa non venivano prese in considerazione per gli investimenti all'interno del nucleo familiare. In secondo luogo, evidentemente, anche un accenno molto più significativo della pianificazione finanziaria, che poi si può sostanziare in questo momento magari in una corsa verso la liquidità, ma è giustificato ovviamente in parte dagli eventi estremi. E terzo fattore, anche il fatto che le famiglie italiane guardano con maggiore fiducia ai professionisti del risparmio, ai consulenti, comunque a persone professionali che fanno questo mestiere tutti i giorni e che quindi possono essere effettivamente di pieno appoggio alle proprie decisioni di investimento. Ci fermiamo, Alfieri, le chiedo solo un minuto di pazienza, do il resoconto di borsa in questo momento, intanto agli ascoltatori 800240024 per intervenire in diretta, adesso a prescindere dal fatto che abbiamo utilizzato dei termini in inglese, cosa che capita sempre di più, mi piacerebbe appunto confrontarmi con voi anche proprio sul nuovo approccio che avete assunto, se l'avete fatto, in termini di risparmio e di investimento. Che riflessione state facendo con la vostra famiglia, visto che l'indagine che abbiamo raccontato parla anche di decisioni sempre più condivise nell'ambito familiare, e quindi vi aspetto tra poco. Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. E L'economia mondiale è sotto stress, mercati finanziari tutt'altro che stressati. Le borse asiatiche, la Cina in particolar modo, sono tornate sui massimi degli ultimi 5 anni. Il Nasdaq, l'indice della tecnologia americano, è sui suoi massimi di sempre. Cosa sta succedendo? Colpa di Tina Turner. Mi tocca scomodare ancora l'inglese, e però insomma c'è un fenomeno del quale parlano molto nelle sale operative, negli ambienti finanziari, che si chiama Tina o Taina. E sostanzialmente è questa la ragione per cui i mercati corrono, perché non ci sono alternative. There is no alternative. Tina, l'acronimo, e questo è un po' il tema sul quale stanno così un po' dilettandosi gli operatori finanziari. Lorenzo Alfieri, effettivamente le ragioni sono proprio queste. Non ci sono alternative di investimento al mercato azionario, per cui con ovviamente una grande selezione gli operatori provano a verificare dove ci sono su questo campo, in questo campo, le migliori opportunità di investimento. La Cina che tenta di tirarsi fuori dal Covid e la tecnologia che ha mandato avanti il mondo in questi ultimi 3 mesi, per cui quale miglior settore di investimento? Cosa pensa di questo detto che circola nei mercati? Ne avete parlato anche voi, e soprattutto come possiamo aiutare gli ascoltatori a comprendere la dinamica cinese e quella della tecnologia, che sono i grandi protagonisti di questa fase finanziaria? Beh, innanzitutto faccio una premessa. È chiaro che siamo a questo punto perché strumenti di investimento tradizionali, soprattutto per i risparmiatori italiani, come i titoli obbligazionari, hanno dei rendimenti ormai estremamente bassi e ormai da molto tempo. Quindi è inevitabile che gli investitori, anche quelli più cauti, non trovino più i rendimenti di un tempo e cerchino altre soluzioni di investimento. Ahimè, purtroppo nel mondo obbligazionario abbiamo visto che quasi tutto ormai non rende più, e quindi ecco che si guarda altrove. Si guarda altrove dove? Principalmente sui mercati azionari, che danno ovviamente rendimenti mai certi, danno dei dividendi anche in questo caso che possono salire o scendere nel tempo, ma potrebbero dare delle soddisfazioni in termini di recupero di valore. E in questi ultimi anni, è inutile negarlo, di soddisfazione ce ne sono state molte. Anche negli ultimi mesi abbiamo visto come le borse azionarie hanno recuperato molto, e questo è un po' alla base ovviamente delle scelte degli investitori, non solo gli investitori della strada, ma anche gli investitori istituzionali, che stanno aumentando le proprie quote verso, diciamo, investimenti azionari. Chiaramente, concludo, temi di investimento. Beh, ce ne sono stati due, li avete giustamente citati voi. Da una parte il gigante asiatico, che è uscito prima dalla crisi sanitaria e sta recuperando forza ed energia. Abbiamo visto i primi dati tendenziali per il 2021, confermano una crescita che potrebbe essere superiore al 7% rispetto ovviamente a una crescita molto bassa nel 2020, che è stata intorno al 2%, si pensa che sarà intorno al 2%. E l'altra parte, ovviamente, uno dei settori che emerge in modo dirompente, vincitore dopo questa fase di crisi pandemica, che è la tecnologia. Ma quale tecnologia, Alfieri? Perché qua è un termine che contempla l'universo mondo come sottostanti. Sicuramente le piattaforme che ci hanno aiutato a lavorare da casa sono le grandi vincitrici, le piattaforme che utilizziamo per fare tutti i nostri eventi in remoto, i webinar, quindi i vari Zoom, StreamYard, insomma. Io continuo a parlare in inglese stamattina perché davvero non ho alternativo, non ce ne sono, appunto, a spiegarle secondo i loro nomi. Le infrastrutture, appunto, le infrastrutture che hanno consentito e che consentono, appunto, di essere collegati in tutto il mondo. Ecco, qual è la tecnologia vincente? Perché chiaramente, se guardiamo al Nasdaq, l'indice tecnologico americano, dobbiamo parlare delle solite Amazon, Netflix, Facebook, le cosiddette FANG, no? Perché sono appunto le iniziali dei nomi di queste società. Ma per il resto, un operatore professionale che è in grado di fare una selezione più puntuale, a che cosa sta guardando nel dettaglio? Ma direi che è molto interessante in questa fase vedere che si sposano, per così dire, due trend diversi, ma che convergono tutti sulla tecnologia. E cioè ci sono dei trend di medio-lungo termine che già erano noti da qualche anno, non so, per esempio data analysis, clouds, quindi Internet of Things. Mi dispiace dover usare l'inglese, ma sono tutte aree di investimento che riguardano aziende che ovviamente sono in grado di, per esempio, analizzare grosse masse di dati, sono aziende che mettono in interconnessione tra loro strumenti di tutti i generi, anche quelli che utilizziamo all'interno della casa. E poi dall'altra parte invece trend di brevissimo termine che però sono stati innescati in modo direi dirompente proprio dalla crisi sanitaria, e giustamente come hai fatto riferimento tu, Facebook, ma anche le piattaforme di interazione, Zoom, BlueJeans, chi più ne ha più ne metta, perché ovviamente sono quelle tecnologie che hanno, per così dire, salvato i quotidiani rapporti di comunicazione, non solo di carattere spicciolo ma anche di carattere lavorativo, e quindi ecco che si sono interconnessi due fattori molto significativi e su cui gli investitori stanno guardando in modo diverso rispetto al passato. Senta, ma voi siete sorpresi dai tempi di ripresa del mercato di questa crisi? Perché noi, non per fare le cassandre, non per fare gli uccelli del malaugurio, ma siamo assolutamente convinti che, nonostante le proiezioni rilasciate dai grandi osservatori, dal Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, Banca d'Italia e tutte quelle che vogliamo indicare, in realtà non abbiamo detto ancora tutto rispetto a quella che sarà la caduta economica italiana, ma anche delle principali economie. E quindi sorprende, forse, anche se è ragionevole, questo recupero del mercato che guarda avanti, guarda oltre, guarda la ripresa totale dell'attività economica produttiva, e però ci è sembrata forse un po' accelerata nei tempi. Voi avete la stessa impressione o tutto sommato è l'abitudine del mercato questa e quindi non deve sorprenderci più di tanto? Perché il Nasdaq, per esempio, già ai primi di maggio aveva recuperato tutto quello che aveva perso con il crollo di marzo, e da maggio ad oggi fa più 17%, stessa indicazione per il mercato cinese. E quindi, velocità o no, è ragionevole questo modo di fare? Beh, bisogna assolutamente ricordarsi che siamo in tempi eccezionali, e quindi in modo molto cauto bisogna evidentemente avvicinarsi a questi mercati. È corretto dire che i mercati hanno in parte recuperato, sicuramente, ma non ci dimentichiamo che alla base di questo recupero ci sono manovre di politica fiscale e monetaria eccezionali, e dall'altra parte la speranza molto forte in questo momento degli investitori che si recuperi in tempi molto molto rapidi quello che è stato ovviamente il crollo verticale non solo dei mercati finanziari ma soprattutto diciamo dei risultati economici sia a livello regionale ma sia a livello ovviamente delle aziende. Ora sul tavolo rimangono dei punti interrogativi. Effettivamente la crisi sanitaria è superata, effettivamente gli utili aziendali ritorneranno a quelli al fasto di un tempo. Inoltre le presidenziali americane, i rapporti tra Cina e Stati Uniti, solo per citare alcuni elementi a cui bisogna guardare con molta cautela, e per questo motivo la volatilità, crediamo, rimarrà alta sui mercati finanziari nei prossimi mesi. E concludo dicendo, è per questo motivo che bisogna avvicinarsi a questi mercati con molta molta cautela, non pensando che tutto è stato risolto. E soprattutto attenzione anche alle aspettative. C'è una bella domanda di Paolo da Milano che chiedo di mettere in linea per la ripresa della nostra trasmissione dopo il traffico, ma ancor prima di tutto questo, caro Carmelo, lo sai, c'è il quizzettone del giovedì. Facile, divertente, dovete però mettervi sul vocabolario d'inglese, ma io l'ho detto poco fa, per gli esperti la spiegazione del continuo rialzo dei listini azionari è semplice, si sintetizza in un acronimo TINA o TINA, T-I-N-A, che sta per traffico. Quello che cerchi nel tuo business, cercalo anche per la tua auto. Guida la nuova BMW Serie 3 Touring con il noleggio Alphabet da 499 euro al mese più IVA. Hai zero anticipo, zero pensieri e tutti i servizi inclusi. Offerta valida fino al 30 settembre su vetture disponibili subito, salvo approvazione di Alphabet Italia Fleet Management. Condizioni dell'offerta su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. due di denari. Il domandone del giovedì, ma siete veramente bravi, perché vedo già delle risposte, nel senso che siete bravi subito a candidarvi. Non vi dico ancora però se avete risposto correttamente. Stanno già arrivando molti amici all'800 24 0024 con le loro domande sui temi di stamattina, ma anche con la risposta al domandone di oggi. Per gli esperti, la spiegazione del continuo rialzo delle borse dei listini azionari delle ultime settimane è semplice, si sintetizza in un acronimo. Tina, abbiamo scomodato anche Tina Turner prima per introdurre l'argomento. T-I-N-A, Taina, chiamatelo come volete, è l'acronimo di una frase, di un'espressione in inglese che sta per 800 24 0024, il numero verde per le vostre risposte, ma anche il numero verde che ha composto Paolo da Milano, che ha una bellissima domanda, perché io credo, Paolo, che lei interpreti davvero il sentimento di molti. Quali sono le aspettative dei nostri investimenti? Paolo, benvenuto e grazie. Sì, grazie, grazie Deborah. No, volevo semplicemente condividere una probabile banalità, ultra banalità. Come mai gli italiani tengono la liquidità? Io per primo. Beh, è banale. Se io ho 100.000 euro, ma facciamo anche 50.000, giusto per fare una media, se lo investo in qualsiasi strumento, se va bene mi danno l'uno, l'uno e mezzo, due, quegli strumenti incredibili, tassati, e cioè equivale su 100.000 euro avere un guadagno tassato di 1.000 euro. Ma insomma, io per 1.000 euro, se ho 100.000 euro, me li tengo liquidi, non esiste. Sì, sì. Finché gli strumenti finanziari, che naturalmente dipendono dal mercato, rendono così poco, la gente tiene la liquidità, perché avere certo. La liquidità è quasi impagabile, Mm-mm. Addirittura si paga per avere la liquidità. Quindi, voglio dire, come giustamente dici, non c'è alternativa, insomma. Paolo, la ringrazio. Allora sì, tante riflessioni potremmo fare dalla sua, dal suo racconto, dalla sua esperienza. Le dice: io li tengo liquidi perché qualunque sia la collocazione non mi danno più di tanto. Paolo fa chiaramente un bilancio ad un anno. Noi preferiamo un approccio diverso, che è quello di dire: investo perché mi servono in un determinato periodo di tempo questi soldi per raggiungere un obiettivo. Paolo ha un approccio proprio più di chi investe con l'obiettivo di guardare anno dopo anno il frutto del suo investimento. Ma questo è un altro tema. Comunque, Lorenzo Alfieri, chiedo a lei così un po' un commento sulla considerazione del nostro ascoltatore, che poi tutto sommato torto non ne ha. Per avere un rendimento interessante bisogna stare sul mercato per un periodo prolungato, chiaramente facendo il bilancio anno dopo anno, è ovvio che sia solamente insoddisfatti. Sì, sicuramente era uno degli elementi che avevo evidenziato prima, cioè il fatto che gli investitori, soprattutto gli italiani, che sono tradizionalmente nel tempo, hanno sempre investito tradizionalmente sull'obbligazionario, non hanno più questo cuscinetto, questo ombrello che deriva o derivava dalle cedole un tempo molto molto importanti dei propri investimenti, ma ovviamente a questo punto, non essendoci più questo ombrello, le cose sono due: o si rimane sulla liquidità, oppure si va verso investimenti più rischiosi, più volatili, ma essendo più rischiosi, certo, possono avere rendimenti più interessanti, ma presentano un maggiore grado di volatilità, incertezza, e possono creare inquietudine. Concludo ricordando che secondo me è sempre però importante guardare alla pianificazione finanziaria nel medio-lungo termine, quindi è nel medio-lungo termine che vanno giudicati gli investimenti finanziari. Senta Alfieri, in questi giorni c'è un altro tema di mercato che sta suscitando grande curiosità, non solo mia, ma vedo anche tra molti ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi su questo tema. Allora, quando le fasi sono molto incerte si punta sui beni rifugio, possono essere alcune valute, lo yen, il franco svizzero o l'oro. In questo momento il mercato azionario corre e quindi non è esattamente la fase in cui si dovrebbe vedere anche l'oro che schizza in termini di quotazione, invece lo stiamo vedendo sopra intorno ai 1.800 dollari l'oncia. Il Sole 24 Ore questa mattina spiega che sono gli strumenti di investimento passivo a farlo correre, gli ETC sono gli equivalenti ETF nel settore delle commodities. Come ci dobbiamo spiegare anche questo fenomeno? Ma è un fenomeno estremo, chiaramente caratterizzato da, come spiegavo all'inizio, da abbondante liquidità. Ovviamente, come abbiamo detto, questa liquidità deve trovare sfogo in varie alternative. Non è più possibile ovviamente comprare titoli obbligazionari più di tanto, perché ovviamente i rendimenti sono schiacciati, i mercati finanziari azionari sono in molti casi ai massimi, ed ecco che si cercano evidentemente soluzioni alternative, tra cui l'oro, ma non solo, proprio per cercare di una diversificazione di portafoglio, per trovarsi pronti anche di fronte a situazioni magari estreme, come da un momento all'altro possono sempre accadere. C'è chi sta facendo un pochino di scorta, come lo scoiattolino, appunto, proprio pronto a predisporre questo cuscinetto anticrisi. Piero da Roma, buongiorno. Allora, che cosa significa? Buongiorno. Perché gli esperti si sono inventati questo acronimo TINA? Che cosa significa? TINA means there is no alternative. Grande Piero, questa mattina mi dà conforto contro tutti gli ascoltatori che si arrabbiano che utilizziamo l'inglese. Guardate, io lo parlo malissimo ed è un gran peccato che non ho l'inglese professionale, per cui bisogna impegnarci un po' tutti e ad essere un po' meno indispettiti se un conduttore radiofonico qualche un termine lo utilizza. Lorenzo Alfieri, a presto, grazie per essere stato con noi. Grazie a prestissimo, a voi. Buon lavoro. Noi torniamo domani con Mauro Meazza, naturalmente, a tutti. Buona giornata.